Torniamo insieme nel nostro spazio di approfondimento dell'indigesto e ora ci spostiamo in Messico, anche se in realtà è una parte del Messico che si è trasferita da noi. E oggi abbiamo degli ospiti in studio che sono degli esponenti, dei membri del Congresso Nazionale Indigeno Messicano. Li vado a presentare, Nisaghe e Eliser, che sono in nostra compagnia. Benvenuti. Allora, per prima cosa, vi chiedo di raccontare chi siete e che cos'è il Congresso Nazionale Indigeno Messicano. Sì, buenos días, mi nombre es Nisaghe. Buongiorno, io sono Nisaghe e sono una delegata del CNI di Tehuantepec, dell'Istmo di Tehuantepec. Sono di una comunità indigena zapoteca e vengo qua a parlare delle nostre lotte. Buenos días. Soy Eliser. Salve, sono Eliser, sono delegato e consigliere della comunità di Amilcingo e sono il delegato dello Stato di Morelos. E come dicevamo, fate parte entrambi del Congresso Nazionale Indigeno Messicano. Vi chiedo di raccontare agli ascoltatrici e agli ascoltatori italiani che cos'è questo congresso, perché evidentemente molti potrebbero non saperlo. Il Congresso Nazionale Indigeno nasce... Il Consiglio Nazionale Indigeno nasce il 12 di ottobre del 1996 con la proposta di unire tutti quanti i nostri villaggi dei fratelli e delle sorelle zapatisti per avere un posto dove poter riunire tutte le comunità indigene. Per avere un posto fisico dove poterci incontrare e poterci sentire protetti e poter parlare tutti quanti insieme. Il CNI si organizza con le assemblee. Quando dobbiamo riunirci, quando dobbiamo prendere e fare un'azione, quando noi riusciamo ad avere un'assemblea e riusciamo poi a parlare delle nostre eventuali azioni, ci ritroveremo poi sempre lì. Allora noi diciamo che quando siamo insieme siamo un'assemblea, però quando siamo separati siamo una rete, perché il CNI rappresenta tutte le popolazioni indigene dello Stato del Messico, di tutte le 68 lingue. Dei 32 stati. Ogni stato ha la sua propria forma di organizzarsi e di lottare. Per questo siamo una rete, perché siamo distribuiti in tutto il paese. Però quando ci dobbiamo riunire, noi formiamo l'assemblea. È giusto anche spiegare la forma con cui si prendono le decisioni, no? Questo processo partecipativo. E leggevo che sono 7 i principi che vengono utilizzati per decidere collettivamente. Il CNI fa anche parte dei fratelli e delle sorelle zapatisti e quindi noi ci riconosciamo dentro i loro 7 principi, che sono servire e non servirsi, costruire e non distruggere, rappresentare e non prevaricare, convincere e non vincere, obbedire e non comandare, abbassarsi e non salire, proporre e non imporre. E allora veniamo alle ragioni che vi hanno portato in Italia anche a fare diversi incontri in diverse zone. Perché siete qui? Venimos come un'invitación. Siamo venuti per un invito dei nostri fratelli e sorelle zapatisti in questa che chiamiamo la Gira della Vita. La proposta è stata fatta all'assemblea, ci siamo riuniti, abbiamo preso le decisioni, abbiamo pensato e siamo tornati nei nostri villaggi. E allora là abbiamo deciso che era importante venire per parlare e soprattutto anche per ascoltare. Allora abbiamo accettato l'invito dei nostri fratelli e sorelle zapatisti, perché così almeno potevamo parlare di quello che sta succedendo in Messico, perché siamo in una crisi che è mondiale, perché ci dobbiamo conoscere e formare delle reti e lottare per la vita. Qui nel mondo e che dobbiamo conoscernos e creare redes e pues luchar por la vida. In questa maniera e quindi noi, come uno specchio del Messico, siamo venuti qui in Europa. Questo noi lo chiamiamo il tour, la gira por la vita, per dire no al cambio climatico e non alla distruzione delle risorse idriche. Abbiamo visto che in Europa anche ci sono degli specchi in cui ci possiamo riflettere. E per questo diciamo che le lotte non devono camminare da sole, per cui non ci deve essere individualismo ed autoritarismo nella lotta. Non c'è bisogno di leader, perché quando nelle lotte c'è un leader o una forma autoritaria è sicuramente un disastro per le lotte che camminano da sole. Oggi diciamo che le lotte devono essere collettive e comunitarie. e che questa è una chiamata che noi facciamo urgentemente a tutte e tutti, senza distinguere colori, di credi religiosi e differenze ideologiche o di genere, di sesso. Quindi in questo contesto nessuno vale di più e nessuno vale di meno. Per questo che questa chiamata è urgente per tutti e cinque i continenti, per la lotta alla vita, per l'acqua e no al cambio climatico. Oggi è l'ultima opportunità che abbiamo come umanità per continuare ad esistere, perché il polo si sta sciogliendo e il mare sta arrivando fino alle città. Siamo prossimi a una catastrofe in tutti e cinque i continenti. A questo punto allora cerchiamo di andare anche un po' più nel dettaglio delle condizioni che le comunità indigene vivono in Messico e alle minacce anche che subiscono. Come comunità indigene noi abbiamo resistito più di 500 anni di saccheggio, di discriminazione e di razzismo, che ci hanno negato i nostri territori, che ci hanno negato le nostre conoscenze, e noi adesso stiamo soffrendo per un differente tipo di saccheggio, il saccheggio delle nostre lingue, delle nostre tradizioni, di quelle che sono le nostre conoscenze ancestrali e di quelli che sono i nostri territori. Il CNI fa parte di tutte quelle realtà che difendono il territorio, la vita, perché ci sono delle comunità che sono state saccheggiate dei loro territori e quindi adesso bisogna che queste comunità vivano dentro la capitale, la Città del Messico. Ci sono comunità che vengono saccheggiate, cui non viene negato l'accesso all'acqua, ci impongono di coltivare con semi transgenici, con agrochimici che ci uccidono e ci fanno malare, e in più ci impongono questi mega progetti delle multinazionali che sono di morte, che vengono da noi a rubarci e a saccheggiare i nostri beni naturali. Per questo stiamo resistendo nella regione da cui vengo, quella dell'Istmo, e stiamo vivendo in queste costanti situazioni di saccheggio, perché vista proprio la posizione strategica geografica dei luoghi, insomma, che da cui vengo, sono stati proprio l'obiettivo, no, di queste politiche criminali da parte delle multinazionali. Sì, perché quella da dove vengo io è diciamo la parte più stretta del Messico, per quello si chiama Istmo, e là dove si vuole creare questa via, che è una via di terra tra l'Atlantico ed il Pacifico. Vogliono dall'acqua costruire questo corridoio interoceanico, che è un progetto che c'è da moltissimo tempo, che ha cambiato negli anni molte volte di nome, che è più conosciuto come il piano Puebla-Panama e che con il presidente Peña Nieto si chiamava zona economica speciale, che è lo stesso progetto che vogliono fare, che è una specie di canale di Panama ma secco, e che vuole essere come il canale di Panama ma per via terrestre, una specie di autostrada che vada da una costa all'altra, che non è solamente questo comunque, c'è un pacchetto di progetti che interconnette il progetto integrale Morelos e il mal chiamato, diciamo, Tre Maia. Non è solamente questo il progetto che ci preoccupa, ma sono tanti che praticamente interconnettono tutto quanto la nazione messicana, che ci portano progetti energetici come i parchi eolici. Noi nell'Istmo già abbiamo 29 parchi eolici che sono distribuiti, ci sono 2100 generatori, e quindi adesso vogliono portarne ancora di più di questi generatori, ovviamente togliendo il territorio. Vogliono anche importare l'industria mineraria, vogliono portare molte fabbriche. Questo paradossalmente va a essere il muro che Trump auspicava, che noi stessi messicani costruiremo. Questa è la parte che va a detenere tutta la migrazione che viene dal Centro America e dal Sud America. E noi sappiamo che questi grossi progetti sono sempre legati con il narcotraffico e la militarizzazione, e dove entrano loro aumenta la violenza, i femminicidi, la tratta delle donne e anche degli organi, la violenza e la tossicodipendenza. Non sono dei progetti come ci vengono a vendere, come ci vogliono far credere, che sono di sviluppo e di progresso. Sono progetti che ci vengono a spogliare delle nostre risorse e sono parte del colonialismo di questo sistema capitalista e patriarcale, che solamente è interessato alla morte e non alla vita. È per questo che le nostre comunità indigene e le altre organizzazioni collettive del Messico, perché la lotta per la vita è di tutti, per questo che noi diciamo che i nostri territori, la nostra acqua, la nostra vita, il nostro cibo non si può né vendere né negoziare. Si deve lottare, si deve difendere, perché si deve cadere questo sistema capitalista e patriarcale a cui non interessa la vita. Per questo siamo qui, per organizzarci, per creare reti, perché questo mostro sembra che sia forte, però possiamo distruggerlo se ci organizziamo, se ci connettiamo. Per questo siamo qua, per poter creare altre forme di lotta. E come dicono le nostre sorelle e i nostri fratelli zapatisti, un altro mondo è possibile. Nostri hermanos y hermanas zapatistas, otro mundo es posible.